una campagna acquisti molto dispendiosa, ha speso quasi 30 milioni, si è oggettivamente, credo, rinforzata perlomeno per quello che è la completezza della rosa, e quindi proprio quest'anno, insomma, i mugugni dei tifosi biancocelesti sono meno giustificati, insomma, non voglio dare ragione a Lotito, però proprio quest'anno, insomma, ha speso molto. No, ma io la do ragione a Lotito anche perché il mercato lo leghi in un'altra maniera, cioè se una società come la Lazio e un presidente come Lotito riesce comunque a non cedere Hernanes, a non cedere il portiere della nazionale, cioè Marchetti, a non cedere un titolare della nazionale, cioè Candreva. Cioè, secondo me va letto in due modi, non solo alla casella arrivi e partenze, ma anche a quella delle probabili formazioni, mettiamola così. E aggiungo questo, che Lotito è stato bravissimo a resistere anche a un altro tipo di ricatto del mercato, che è quello del procuratore del Maz. Se noi andiamo a guardare i dati, tra l'altro, che ha diffuso la FIFA sugli scambi internazionali, che sono aumentati tra il 2012 e l'intero 2013 di circa il 20%, quindi sono in crescita. E se li paragoniamo alla crescita che nello stesso periodo ha avuto il costo degli intermediari, degli agenti, che invece è salito dell'80%, capiamo poi perché avvengono certi trasferimenti e come il potere di agenti e procuratori sia sempre più forte, e di conseguenza trovare un presidente che resiste a, tra virgolette, a ricatti, a pretese assurde, pur rischiando magari il malcontento della piazza, è raro, ma dovrebbero seguire tutti questo esempio. Ci sono tanti procuratori bravi, naturalmente, tanti agenti che fanno in maniera impeccabile la loro professione, ma ci sono anche tanti, diciamo, ladri, e non lo dico io, ma l'ha detto Michel Platini qualche giorno fa. Insomma. Sì, quello di Michel Platini mi è sembrato un'uscita abbastanza demagogica, se ti devo dire la verità, perché ha detto non si può, le solite frasi, no? Non si può andare avanti così, non ci sono più le mezze stagioni, eccetera. Ma insomma, ha ricordato come comunque questa tendenza del mercato esiste da decenni. E non vedo come si possa invertire la tendenza, perché comunque gli stipendi e le cifre le fa il mercato, no Marco? Sì, credo che Platini, tra l'altro, in quel contesto cercasse di lanciare un messaggio a tutti questi fondi di investimento che ormai stanno prendendo piede e che tendono a drogare il mercato, perché hanno semplicemente un intento speculativo. Lo stesso Lotito ha dovuto farci conti per Felipe Anderson, e quindi diciamo che l'ottica di quella frase va vista, secondo me, in questi termini, cioè un messaggio anche alla FIFA e una conferma delle posizioni della UEFA, che vogliono vietare e bloccare questi fondi, anche se sarà tutt'altro che facile. Pensa che in Brasile, dove si sono diffusi e dove tutte le squadre ormai dipendono da questi fondi, il governo brasiliano ha offerto ai club una via d'uscita in cambio della rinuncia al sostegno di questi club, e questa via d'uscita era il condono dei debiti fiscali che i club brasiliani hanno con il governo brasiliano per quasi 1 miliardo. I club brasiliani hanno rinunciato e si vogliono tenere i fondi, quindi per capire come poi, quando attecchiscono, è difficile mandarli via, perché finanziano le squadre, perché permettono alle squadre di mantenere in rosa giocatori importanti, vedi il caso Neymar, che comunque porta poi introiti a sua volta. È chiaro che hanno aspetti positivi questi fondi, ci sono però aspetti molto negativi legati al riciclaggio, allo sfruttamento dei giocatori e alla poca trasparenza che alla fine l'invasione di questi fondi può creare nel sistema. Tu pensa magari a due squadre che giocano una partita importante e che hanno nelle rose giocatori che appartengono allo stesso fondo. E ci sono stati già dei casi, insomma, per cui Platini penso volesse dare un messaggio in questa chiave. Mauro Biella, buongiorno. Buongiorno. Dica. Io chiamo, perché lei, ho sentito che parlava dello stipendio di Cambiasso, dei vari Io sono un tifoso interista deluso. Sì. Il trattamento usato, torno a ripetere, purtroppo l'hanno messo sulla brace a Stramaccioni e non hanno pagato chi dietro a Stramaccioni gli ha costruito la squadra, quindi vari ausilio, ma specialmente Branca, che non lo si vede mai in televisione, non lo si sente mai parlare. Infatti ultimamente, dopo Mourinho, credo che non abbia fatto bene per mio conto, ma è sempre nascosto, e so che prende un bello stipendio. Com'è che questi personaggi, i giornali, non ne parlano mai? Non so perché, ma non mi sembra che non ne parlino mai, anzi mi sembra che ne parlino parecchio. Sì, poi Marco Bellinazzo, poi è chiaro che parli più di l'esposizione mediatica del presidente, è diversa, è diversa. In ogni caso Vedremo se questi dirigenti resisteranno al cambio di gestione, non credo. Ma ti risulta che siano stati rinnovati i contratti di questi dirigenti dell'Inter e che questo tu non l'abbia digerito? Beh, mi risulta che siano stati fatti tutta una serie di prolungamenti contrattuali all'interno della governance di tanti dirigenti che ha l'Inter, e la cosa insomma non è piaciuta a Toir, come non è piaciuto il rinnovo, immagino, del contratto con Nike per altri 10 anni, che è stato tutto sommato, dato il mercato, un buon rinnovo con un incremento del 10-15%, quindi l'Inter incasserà 200 milioni in 12 anni, però sai, legarsi le mani per 12 anni sullo sponsor tecnico, quando gli introiti delle big europee viaggiano ormai ben oltre i 30 milioni all'anno, a Toir credo non sia tanto piaciuto, anche perché immagino avesse altri certo, progetti. Se tu arrivi, vuoi trovare, avere le mani libere ed essere libero appunto di firmare i contratti che vuoi, cioè questi prolungamenti contrattuali non sarebbero piaciuti a nessuno, non solo al signore from Indonesia. Andrea Padova. Buongiorno Ginta, grazie buongiorno. Per essere stato convocato. La mia è una domanda che non è sportiva, no? Però io sono un interista, Cambiasso mi è molto simpatico, sì. Però dico, ma cosa se ne farà di 4 milioni all'anno una persona come Cambiasso, che ha calciato palloni fino all'altro giorno? Ovvero, dov'è il beneficio e qual è la motivazione che spinge questa gente a non accettare un contratto per 1 milione di differenza? Come gli cambia la vita a questa gente, voglio dire? Ma, qui la mia è domanda... Da piccolo imprenditore, insomma, e dico, cosa ma se ne fa, non c'è qualche... Allora cosa se ne fa Alonso di 30 milioni l'anno? Ancora di più, cosa se ne fanno i Rolling Stones di 3,5 milioni di sterline per un solo concerto, o Elton John di 1 milione però. Di sterline? No, vado avanti se vuole. Ben Stiller 53 milioni di dollari per un film, cosa vuole sapere? Robert Downey Jr. 22. Allora, tutto questo è motivato dal business generato da Esteban Cambiasso o da Alonso? Io non credo che sia così. Che sia uno stipendio spropositato dal punto di vista calcistico, insomma, possiamo discuterne, però io l'ho ripetuto mille volte, non riesco a scandalizzarmi di fronte a quanto guadagnano artisti, personaggi dello sport, lavoratori infungibili in generale, quindi non so cosa se ne facciano, certamente vivranno bene come Diego Milito, che ne prende 5. C'è da considerare, sì, anche che hanno una vita professionale, se vuoi, limitata, e quindi, sì, cercano di portare a casa il più possibile finché possono svolgere quel tipo di attività. Poi in ogni caso molti poi fanno i commentatori, sì, comunque continuano a guadagnare bene. Ma non tutti, insomma. Sì, diciamo che non hanno problemi per il futuro, né loro né i loro figli, né nelle successive generazioni, se non li sbattono via, come spesso succede. C'è un ascoltatore che mi scrive: non hai ancora capito che le bolle sono nocive, sono i super stipendi ad essere esagerati, non l'ho perso, non i 3 milioni, vediamo se lo ritrovo, non i 3 milioni ad essere pochi, le bolle sono nocive. Quali bolle? Sì, beh, probabilmente si riferisce a questo, come dire, aumento spropositato che c'è stato fino a 2 anni fa degli stipendi di molte squadre della Serie A che non potevano permetterselo e che hanno dovuto fare questa virata negli ultimi 2 anni, non solo rinunciando a tanti campioni per venderli bene, insomma incassare le somme, ma soprattutto per abbassare il monte ingaggi. Inter e Milan, tanto per fare 2 esempi, sono passate da 200 milioni a monte ingaggi. Milan ha quasi dimezzato, siamo quasi a 100 milioni nonostante Robinho, tant'è vero che hanno cercato di venderlo in tutti i modi, sì, non ci sono riusciti. Ha telefonato anche a noi, volevano vendercelo qui alla radio, ma insomma, non l'abbiamo preso. E la stessa Inter è scesa da circa appunto 200 milioni e passa di ingaggi, siamo intorno a 120-130, e il trend sarà ancora quello, nonostante Toir, che non credo invertirà la rotta, almeno finché non cresce il fatturato, perché il discorso, Carlo, non è tanto di guardare in sé gli stipendi, e io aggiungo anche gli ammortamenti, che sono i costi dei cartellini, ma guardare tutto questo in rapporto al fatturato. Cioè, quando Milan e Inter spendevano 200 milioni, avevano 250 milioni di fatturato. Sì. Real Madrid e Barcellona spendono più di 200 milioni, ma hanno 500 milioni di fatturato. Ed è per questo che prendono i soldi dalle banche, certamente. ne hanno presi molto in passato. Adesso, se vai a guardare bene l'esposizione debitoria di Real e Barcellona, proprio perché hanno generato e generano utili ogni anno, è scesa. Per esempio, il Real Madrid siamo sotto i 100 milioni, il Barcellona siamo intorno ai 300 milioni. Non è in questo momento, diciamo, l'aiuto delle banche per quanto riguarda, ripeto, sì, Real e Barcellona, il problema riguarda tante altre squadre iberiche, e invece il fatto che ci sono una serie di regole tecniche, anche di contabilità proprio, che favoriscono il Real Madrid. Pensiamo al fatto che l'ultimo bilancio del Real Madrid, che si è chiuso a 5,30, contabilizza 50 milioni circa, che sono i contributi dei determinati soci che ha il Real Madrid, soci associati, una sorta di cooperativa, insomma, tanto per intenderci. Sì, sì. Ebbene, questi 50 milioni sono considerati, nell'ottica del fair play finanziario, come ricavi. Tecnicamente queste persone sarebbero piccoli proprietari. Certo. In Italia però, se Moratti vorresse, non ce li ha, insomma, se volesse mettere 100 milioni non potrebbe farlo per la logica del fair play finanziario. Ecco, questa è una incongruenza del fair play finanziario che non è stata risolta, guarda caso, perché Real, Barcellona, Bayern Monaco hanno una struttura associativa. Certo, si potrebbe lanciare anche l'idea dell'azionariato popolare in Italia, che non è però mai riuscita a funzionare e credo non funzionerà mai. Quindi tante volte abbiamo sentito questa storia dell'azionariato popolare, ma ad ogni livello, non solo nel calcio di Serie A, e in ogni sport non se ne è mai venuti a capo. Marco Berninazzi, io ti ringrazio, so che domani Sole 24 Ore, qualcosa di speciale sui diritti televisivi, che sarà la prossima grande battaglia, e domani sarai qui con Giovanni Capuano a parlarne, vero? Assolutamente. Ho sbagliato qualcosa? Sì. Sono convocato. Sei convocato? Convocato anche e risponderò alla convocazione. Proprio per il senso di presenzialismo che ormai che ormai sei preso di Ruciani, l'abbiamo detto. Tutti convocati. Tutti convocati sempre, ogni giorno all'800240024. Certo che se il parametro di riferimento per fissare il prezzo dei giocatori è Gareth Bale, stiamo freschi. Ad esempio, c'è Rafa Benitez che ieri ha fissato la cifra per la quale Hamsik potrebbe andare via dal Napoli, è questa. Che valore di mercato possiamo dare? Per noi non ha prezzo, no? È un giocatore importantissimo, ma noi non vogliamo vendere Hamsik, sì? Non diciamo nessun prezzo e nessuno pensa a lui. Insomma, vale molto di più della Gioconda, bisogna chiamare Raiola a chiedere quanto vale, a quanto si può vendere Hamsik. Altri argomenti molto divertenti, secondo me. Ad esempio c'è un Ibrahimovic che racconta l'ennesimo miracolo del Signore che cammina sulle acque del calcio. Mourinho, sentite Ibrahimovic. He drag out of me things that no other coach has done before. I mean, when I was playing, I was feeling like a terminator. I was feeling so confident under him. And when he had his talk, how he prepares for the game, the way we were playing, the way he made you feel, from being a cat, I felt like a lion. And when I came out, I was so confident in my game. Avete capito l'inglese di Ibrahimovic? Allora Mourinho mi ha trasformato da quello che era prima, cioè un gattino, in un leone. Se lo dice lui, magari crediamoci, non lo so, fate voi. C'è poi la storia di Boateng, che insomma, qualche giorno fa era uscita questo virgolettato del neo giocatore dello Schalke 04 che aveva ribadito il solito refrain: sono andato via dal calcio italiano per causa del razzismo imperante nei vostri stadi. Pare che abbia corretto il tiro Boateng. Mi dispiace veramente per questa brutta notizia, perché non è vero. Io ho detto mai voglio lasciare l'Italia o il paese Italia per il razzismo. E questo, io ho cambiato la squadra per me, per il mio calcio, e non è per il razzismo. E questo vuol dire, e non è vero cosa ha detto lui. Dunque vado via, ma non per razzismo. Altri motivi per Kevin Prince. Allora Mario, provincia di Milano, buongiorno e grazie per l'attesa. Ringrazio voi, è stata un'attesa da... servirebbe uno stipendio da calciatore, diciamo. Comunque, il mio intervento voleva essere questo. Lei prima, sarò breve, lei prima ha parlato di Platini e del discorso del non può fare niente per gli stipendi, dopo tutto c'è il mercato ed è il mercato che fa i prezzi. Io dico solo una cosa, in parte è vero, cioè più che Platini presidente UEFA, quando presidente della FIFA, che potrebbe anche diventare Platini un giorno, sì, potrebbe avere come modello gli Stati Uniti, che in quanto a mercato, lei mi insegna, per esempio l'NBA c'è una cosa semplice, un tetto agli stipendi, ma se facciamo una cosa UEFA, anzi FIFA, cioè a livello mondiale, si fa un tetto, il famoso non è salary cap, non è facile, no, certo, è famoso, però basta la volontà, domani fanno un tetto, gli scambi dei giocatori non possono superare 50 ed è 50, punto. E anche stessa cosa mutuata dall'NBA, poi finisco, il meccanismo, non so come si chiama, per cui la squadra che arriva ultima può scegliere il migliore, quindi le Neymar scelte. Non va a Barcellona ma va a Catania. Ho capito, ma sì, però non mi sembra che la si faccia un po' troppo semplice. Cioè il sistema NBA visto così sembra la soluzione, ma è molto difficile da replicare. Ad esempio, il meccanismo delle scelte, sapete bene come in ordine inverso rispetto alla classifica del campionato, poi ci sono c'è anche lì il sorteggione in sala mensa, perché non è detto che chi perde più partite abbia la prima scelta, perché c'è un sorteggio anche su quello. Allora le scelte vengono effettuate sulla base dei giocatori che non sono sotto contratto NBA, quindi che escono dall'università, oppure europei che non sono stati scelti da altre franchigie. Mi sembra molto difficile replicare un sistema di questo tipo nel calcio, come non mi sembra semplicissimo, è un discorso molto vecchio che è stato fatto molte volte e guarda caso non è mai stato messo in pratica quello di attuare un salary cap per quanto riguarda le squadre italiane, ma a questo punto stiamo parlando di mercato europeo, quindi un salary cap a livello UEFA, FIFA o quello che vogliamo non è così semplice da praticare. Poi non è che questo possa essere secondo me un grande incentivo nel calmierare gli stipendi, perché sappiamo come i giocatori di basket, ma non solo di basket, americani abbiano molto spesso stipendi elevatissimi. L'altro giorno citavo l'esempio di A-Rod, Alex Rodriguez, ex stella molto dopata del baseball, che guadagna dei soldi irreali. Antonello Milano, buongiorno. Buongiorno. Io volevo fare una piccola premessa, sono un interista diciamo doc, perché ho sangue metà nero e metà azzurro, sì. Però questa gestione scellerata da parte di Moratti dell'Inter è assolutamente inaccettabile. Ma lei a cosa si riferisce per gestione scellerata? Quale? Scellerata. La gestione di Moratti è molto risalente, cioè insomma, è da molti anni che Moratti gestisce l'Inter. Esatto, a cosa si riferisce? Al record del cambio degli allenatori, passa dalle stelle alle stalle, da Mourinho a Stramaccioni, sì. Lottiamo per e vinciamo la tripletta e l'anno dopo rischiamo di andare in Serie B. È una gestione assolutamente scellerata da parte di incompetenti dal mio punto di vista. Sì, però sono gli stessi incompetenti che però Antonello, poi mi dice gli ingaggi, però sono gli stessi incompetenti che avevano preso Mourinho, il quale ha vinto il triplette, sono grosso modo gli stessi, no? Esatto, è proprio scellerata, cioè se fai un programma devi mantenere quel programma e portarlo avanti negli anni. Ho capito, però se Mourinho vuole andare via, esce dal Bernabeu con la macchina del Real Madrid, Moratti non può farci molto. Mettere, quando gli faccio il contratto che lo assumo, lo devo mettere come molte società lo fanno con i giocatori, devo mettere delle penali dove comunque mi danneggia la squadra andandosene via, però mi lascia dei soldini che io posso riutilizzare per mantenere un accesso della squadra a un certo livello, cioè trovo che abbastanza. Vabbè. Lo fanno normale. Messi non hanno fatto una penale, c'è la clausola recessoria, ma dall'altra parte lo stesso Napoli ha beccato 64 per Cavani senza fare nessuno sconto. Mi dica degli stipendi. No, invece degli stipendi è assolutamente pazzesco, ma perché questi soldi poi glieli diamo noi che siamo gli utilizzatori, perché il giro d'affari è enorme, noi spendiamo per il biglietto 100 euro per andare a vedere una partita. D'altra parte è così, no? Così come spendiamo i soldi per andare al cinema, un concerto, eccetera, eccetera. Cioè, non vedo tutte queste differenze, quindi i soldi li diamo noi, ma non è che ci vengono estorti, li diamo noi perché ci interessa quel tipo di spettacolo e quindi lo prendiamo in televisione, lo acquistiamo i biglietti dello stadio, quindi non mi sembra che ci siano una circonvenzione di incapace. c'è una libera, c'è una libera scelta, no, quindi questo. No, lo so, ho capito, però quando lei dice i soldi glieli diamo noi, i soldi glieli diamo noi così come li diamo ai cantanti e agli attori eccetera eccetera, non vedo una gran differenza, nemmeno un motivo così enorme per scandalizzarsi, Antonello, semplicemente questo. Marco Bologna, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Mi sente? Sì. Allora, volevo dirne tutto sul monte stipendi, io penso che sia giusto così, uno paga quanto vuole, dove vuole, come vuole, senza problemi. Questo per quanto riguarda una rockstar, un calciatore, insomma, sì. Così. Poi volevo dire una cosa, io sono interista, no? Però adesso vedo che danno sempre contro l'Inter, adesso se non vince gli danno contro, perché questo è il modo che hanno di fare anche i giornali. E non si parla mai di Milan, come se il Milan fosse quello che negli ultimi 20 anni, cioè negli ultimi 10 anni, scusa, abbia vinto più dell'Inter, e non è così. Perché adesso mi viene in mente due o tre aneddoti, che il Milan ha Galliani che è bravissimo a parlare, tutti gli vanno dietro. Per esempio mi ricordo Olivera, quando comprò Olivera, ve lo ricordate? Ma sì, ce lo ricordiamo, era nel pacco Ronaldinho. No, dopo la prima giornata che fece gol, disse: noi facciamo mercato da tanti anni, cosa pensavate? Che non eravamo capaci di comprare. Ma poi infatti l'hanno smentito, e la gente come lei, non solo lei, si ricorda queste storie. Mi sembra che sul Milan si sia detto molto, non sempre in positivo, al di là di Oliveira. Marco, io volevo parlare con lei di Balotelli, due giorni che volevo chiamare Balotelli, infatti me, Balotelli... io aspettavo, no, perché prima c'era un ascoltatore che mi ha scritto: spero non ti diano più di 1500 euro al mese, eccetera. In realtà io ne prendo, ripeto, 2 milioni l'anno, perché per parlare bene di Balotelli, no, contratto firmato da Mino Raiola. Sì, lei lo vede in un modo, io lo vedo in un altro. Per ma me sicuro, è un giocatore, ma anche per me non è però paragonabile ai campioni che sono in giro per l'Europa, assolutamente, anche perché deve dimostrarlo. Secondo me Raiola gli ha dato una bella spinta, sì, a farlo diventare forte, come tutti dicono. Perché lui cosa ha dimostrato finora? Cosa ha vinto finora? Uno scudetto a Manchester, una Coppa Campioni all'Inter, non giocando, uno scudetto all'Inter non giocando. No, sullo scudetto all'Inter non giocando non sono d'accordo. Beh, insomma, c'era Ibrahimovic che faceva tutto lui, insomma. Beh, tutto lui, ma lei se... No, io capisco, no, io ricordo, la memoria del tifoso ferito, però io mi ricordo Balotelli fare dei gol determinanti a 17 anni per uno scudetto dell'Inter, quindi non è così... Ma determinanti cosa intende? L'ultimo che fece contro l'Atalanta, con Ibrahimovic? Boh, in quella stagione ricordo un gol al Bologna, che magari ricorda anche lei, ricordo un gol a Udine con l'Udinese, e vado, sto andando a naso, così, no, pescando nella memoria. Non sto dicendo che è un bidone, attenzione, non sto dicendo che è un bidone, anzi dico che è un grande giocatore. Sì, ma però Marco, io quello che dico, no, fenomeno, io devo, sì, io ce ne passa, A fenomeno ce ne passa, però io ovviamente devo onorare il mio contratto. Vi ricordo che Balotelli, insomma, è abbastanza un luogo comune questo di dire: ma cosa ha dimostrato, cosa ha vinto? Ha citato lei i titoli che ha vinto, e ha 23 anni, 9 gol nell'anno dello scudetto e ne aveva 20, quindi anche questo di dire: ma cosa ha vinto, cosa ha dimostrato, cosa ha fatto? Aspettiamo un attimo, mi sembra che fin qui a 23 anni abbia fatto non quanto Messi naturalmente, non quanto Cristiano Ronaldo, però i numeri mi sembrano, facciamo così, interessanti, siete d'accordo? 800240024. La ringrazio, Marco Strade, poi Gino da Verona e poi andiamo avanti. Buongiorno, convocato e felice, dopo tutte le cose che imparo ogni volta che ascolto la tua trasmissione. Tutti convocati. Allora, Gino da Verona ha già annunciato, buongiorno. Buongiorno dottor Genta, mi spiace che il dottor Bellinazzo non sia più in linea, perché avrei voluto affrontare con lui. Lo trova domani, guardi. Domani purtroppo sono non all'estero, quindi non posso. Ma passa spesso, Marco, quindi non si preoccupi. Senta, a me è lo scandalo più grande che secondo c'è nel mondo del calcio. Noi come tifosi, io sono un tifoso del Chievo, siamo stati veicolati con la testa del tifoso a rispettare tutta una serie di regole, di procedure. Io stamattina sono andato a fare i biglietti per andare a Roma domenica a vedere la Lazio. Insomma, c'è tutta una... Non capisco come mai la FIFA non fa la stessa roba, non veicola in un certo modo quello che sono, secondo me, il marcio, il vero marcio del calcio. Non è lo stipendio di Cambiasso o lo stipendio di Gomez. Il vero marchio nel calcio è i procuratori, sono gli agenti FIFA, tutta quella gente che ruota intorno a un giocatore e che cerca di far di tutto per portare a casa il più possibile i loro interessi, a loro della squadra dove mettono il giocatore, non gliene frega niente, loro sono lì solo per mangiare soldi. Vabbè, e ma fanno, cioè, Gino, è un po' possiamo allargare questo discorso agli avvocati, cioè gli agenti FIFA fanno il loro lavoro, che è un lavoro lecito, legale, e non, insomma, se vogliamo dire procuratori possono condizionare certe scelte, ed è vero, se i procuratori ormai sono troppo invadenti ed invasivi, può essere vero. Il discorso di Platini era relativo ad una distorsione di questo meccanismo, che sono quelli dei fondi di investimento, quelle entità un po' astratte che ormai da diverso tempo hanno preso l'abitudine di acquistare i cartellini di certi giocatori. Era successo, io ricordo, per la prima volta in cui capitò in maniera eclatante questo, venne alla luce in maniera eclatante questo meccanismo, fu quella di Tevez e Mascherano, che vennero prelevati da questo fondo di investimento, poi andarono nel West Ham, eccetera. Quindi non me la piglierei poi così tanto con il meccanismo dei procuratori. Stiamo attenti ad evitare distorsioni, questi fondi di investimento possono provocare dei problemi, certamente. Poi sa, procuratori, vabbè, esistono da molto, i giocatori si fanno rappresentare, i presidenti non hanno mai il capo al collo, e quindi bisogna fare i conti anche con queste persone, che non riguardano solo il calcio, non riguardano solo il calcio italiano, men che meno. Ogni giocatore di livello ha un agente, un procuratore che cura i suoi interessi. In questo non vedo niente di particolarmente perverso, salvo esagerazioni, salvo forzature, naturalmente. Oggi gioca anche, torna in campo anche l'Italia del basket, che seguiamo con grande attenzione, apprensione e ansia, no, direi con grande entusiasmo, questa mi sembra la parola giusta. Si gioca contro la Slovenia, padrona di casa, ore 21, Pianigiani. Ti accorgi del rispetto che c'è, ti accorgi di quanto è cresciuto tutto quello che c'è intorno all'organizzazione, eccetera. Questo sicuramente è una cosa che devono sentirsi i ragazzi, deve spingerli a essere da un lato orgogliosi, dall'altro a dare ancora più fondo a tutte le energie che hanno, a tutte le loro qualità personali prima che di giocatori, per riuscire a resistere, stare in partita e giocarsela, dimostrando che ci siamo, come ci sono altre nazionali di valore assoluto nel nostro girone. Quindi questo rispetto c'è, questa consapevolezza deve essere per noi invece un desiderio di poter essere stabilmente a vivere queste cose. Ieri siamo arrivati, molti di noi sapete che 8 su 12 sono il loro primo europeo. Muoversi nella palestra pesi, intorno c'era Parker, Gasol, Calderon, trovarsi lì tra gli altri che ci fanno i complimenti, sono cose che pesano, che ti fanno fare veramente un salto di consapevolezza, di qualità. Europei di basket, ore 21 contro la Slovenia, diretta Rai Sport 1. Ricordo, può essere anche l'occasione, caro Luca da Milano, per allargare le nostre conoscenze sportive. Ma cosa diavolo è il pick and roll? Difficile spiegarlo senza immagini. Comunque, quando quello che palleggia, diciamo così, prende il blocco, il velo, non mi viene in mente un'altra immagine, di un compagno di squadra, e quindi il compagno di squadra va verso canestro e quello che palleggia può fare arresto e tiro, può penetrare, eccetera eccetera. Molto difficile spiegarlo radiofonicamente. Mi serve Dan Peterson, oggi non c'è, ma ci sarà domani. Abbiamo purtroppo solo 3 minuti per parlare con Pieraugusto Stagi di un altro che si iscrive a questo settembre azzurro, anche se porta la maglia rossa, ma è bellissima quella maglia rossa. È Vincenzo Nibali in Spagna. Ciao Pier. Buon pomeriggio, ciao Carlo. 3 tappe per chiudere questa impresa di Nibali. 3 tappe di montagna durissime e poi entra nel... così, forse c'è già nella storia del ciclismo, però mette un'altra pietra. Non è così facile, forse abbiamo reso un po' tutto il racconto molto banale, invece lo sport ci insegna che ogni giorno bisogna conquistare tappa dopo tappa, e i segnali che ci sono arrivati l'altro ieri sono i segnali di, non dico di una crisi, ma certamente di un Nibali umano, che è normale, è umano, che dopo una stagione così lunga e logorante mostri anche i segni della fatica. Ricordiamo che Vincenzo ha cominciato a pedalare a buon livello già a gennaio al Giro dell'Argentina, che poi ha proseguito vincendo la Tirreno Adriatico, poi ha vinto la Grande Giro d'Italia. È un corridore che sta correndo con una mentalità vecchia, no? Non da corridore che individua un grande obiettivo e su quello costruisce tutta la stagione, ma onora tutta la stagione, quindi corre 10 mesi all'anno. Sì. E sta mostrando un pochino i segni della fatica, tant'è vero che li mostrano anche Valverde, Rodriguez, che sono lì subito dietro di lui, li mostra meno ad esempio Chris Horn, che ha quasi 42 anni e ha solo 28 secondi da Nibali, lo danno un po' come un po' il vecchietto un po' rincitrullito. La verità è che la sua forza, al di là del suo carattere, la sua tenacia, è che negli ultimi 2 anni ha corso molto poco e quest'anno ha corso praticamente fino alla, a marzo, e poi è stato operato al ginocchio, è stato fermo, letteralmente fermo 4 mesi, quindi ha tutto, tutta la freschezza atletica da sprigionare, anche se logicamente non è un giovincello, ma è un osso duro, non lo sottovaluterei. Quindi, oggi è una tappa cruciale. Se oggi Vincenzo porta a casa la pelle, allora veramente usiamo un plurale, ce la giochiamo. E se no oggi beh, dai, ma bello così sportivamente parlando, Pier, 3 giorni per scrivere questa, per scrivere in maniera meravigliosa il finale di questa storia spagnola per Vincenzo Nibali. Ci sono tanti motivi, giro e vuelta nello stesso anno non è cosa da poco, e soprattutto un italiano che vince per 2 volte il Giro di Spagna, mai nessun corridore italiano è riuscito, quindi entra a tutti gli effetti nella storia del ciclismo Vincenzo. Confidiamo nella magia di questo settembre azzurro, in cui ovviamente includiamo anche Vincenzo Nibali, che porta quella meravigliosa maglia rossa, speriamo fino al traguardo finale. Grazie per Augusto Stagi, grazie anche a voi. Ciao Pier, grazie a voi che ci avete seguito e avete risposto alle convocazioni. Domani e lunedì vi terrà compagnia Giovanni Capuano, ci sentiamo per quanto mi riguarda martedì. Franco Piantanini, autore di questo programma, Pietro Accorte in regia, ciao a tutti. Solo su Sky la stagione di sport più grande di sempre è già iniziata, tutta in diretta e anche in HD, e solo fino al 29 settembre con un'offerta imperdibile. Con Sky Sport hai tutte le gare di Formula 1, della MotoGP 2014 Live e tutta la UEFA Champions League. In più Sky TV e Sky Go a soli 29 euro al mese con prezzo bloccato per 12 mesi. Abbonati subito per non perdere Milan-Barcellona, Real Madrid-Juventus e il Gran Premio di Corea. Chiamaci 02 50 50, info su grandesport.it. Massimo, pensa che bello se si potesse controllare un'auto con un dito. Sì. Sarebbe incredibile, davvero fantastico. Ma è già possibile. Sul serio? E come? Ma con la nuova Citroen C4 Picasso, il TecnoSpace, l'unica del segmento con touchpad. A settembre da 279 euro al mese con manutenzione programmata inclusa. E dopo 2 anni sei libero di sostituirla. TAN 3,99%, TAEG 6,04%. Info su citroen.it. A tutti gli ascoltatori, stiamo cercando un veicolo commerciale. È stato avvistato ieri a Milano, ma prima era stato a Napoli, a Londra, in Turchia, Russia, Germania. Se non vuoi trovarti in questa situazione, scegli Visiran e sai sempre in tempo reale dove sono e cosa fanno i tuoi mezzi. Controlli i consumi di carburante e comunichi con i tuoi autisti in tutto il mondo. Provalo subito gratis sul sito visiran.it. Visiran, se non vedi non sai, se non provi non capisci. Regole per la spesa intelligente. Numero 199. Manda ognuno dei tuoi 5 figli in un negozio diverso per accaparrarsi le offerte migliori. Oppure segui l'unica vera regola della spesa intelligente. Entra da Eurospin. Selezioniamo per te solo prodotti di qualità al miglior prezzo. Dal 12 al 21 settembre, latte parzialmente scremato, 1 litro Land a 49 centesimi e macinato per ragù di bovino adulto a 4,99 euro al chilogrammo. Eurospin. La spesa intelligente. Sono un serramentista e vado a Made Expo perché cerco serramenti più efficienti e le migliori macchine per la loro lavorazione, per rispondere subito ai clienti che vogliono utilizzare l'EcoBonus. Distribuisco prodotti per l'architettura di interni in Russia. Vengo a Made Expo perché le porte, i pavimenti e i rivestimenti italiani da noi sono un must. Nei saloni specializzati di Made Expo, le proposte delle aziende leader per l'architettura e le costruzioni, convegni, eventi e occasioni di confronto con i mercati internazionali. In fiera Milano dal 2 al 5 ottobre.